invece dei nastri in FM, al limite della banda, portarli alla rotellina, alla fine ce l'ho io. Ma c'erano quei VHS, quelli hi-fi, quattro testine, eccetera, eccetera. C'era un amico che lo utilizzava per le nostre oppure della radio, utilizzando la videocassetta, ma c'era una qualità audio eccellente. Ascolta Robè, il mio era l'SLV 777 Sony, sette testine, trattava la faccia stereo separatamente da quella mono, aveva l'auto Dolby con un compressore e un decompressore, e ti posso dire che alcune volte ho preso dei CD, li ho passati in VHS e poi li ho messi in cassetta, e poi gli amici dicevano questo è il CD, invece era la cassetta, pensa tu. Perché il supporto era molto largo, poi il supporto magnetico era molto largo, puoi fare delle belle incisioni, poi puoi registrare anche in quattro tracce, c'era un amico che faceva quattro tracce addirittura. KK, ho fatto anche questi esperimenti qua. Poi niente, con Lumatic, con Dolby, sempre Sony, vabbè, era un apparecchietto che costava, mi sembra, 7 milioni di Lumatic. Ne avevo la coppia, però uno ho dato perché c'era un amico che aveva bisogno e gliel'ho venduto a poco. Mi è rimasto uno, mi è rimasto comunque. Con Lumatic la qualità audio su nastro era praticamente pari al DX77. Sì, erano belle cose. Si era aggiunto il topo all'epoca nel coso. Io c'avevo un Sharp, lo stesso, quattro testine, e funzionava più che bene. Iniziava, diciamo, facendo che erano dei sistemi analogici, andavano alla grande. Sì, vabbè, però niente, l'analogico, vabbè. No, il digitale, c'ho tutto digitale. Hai visto la foto di quell'autoradio? Con le casse monovia, ma devi sentire cosa esce. Però poi appoggio la puntina, non lo so, mi dispiace. Non so, io ho delle registrazioni in bobina, adesso vabbè vogliono pulite le testine di quel coso, di quel Philips, quello grosso, ma cacchio all'epoca quando le avevo sentite erano delle registrazioni da paura. Non accendo il riporto, stai attento quando lo accendi, o meglio lo accendi un attimino, una decina di secondi, pronto a spegnerlo, per non far partire i condensatori dei filtri di alimentazione. Ti devi rendere conto subito, se puoi aprirlo prima di accenderlo, se è rimasto molto fermo è meglio, così vedi già sta accadendo qualcosa, senti subito la corrente, tanto per non fare danno intorno, capito? No, ogni tanto l'accendo, no, funziona perfettamente, niente da dire, ho fatto tutti i motori, li faccio muovere avanti, indietro, le variazioni di velocità, in avanzamento, in rallentamento, è bello perché lo puoi far camminare il nastro, non sono il professionale, è un 4 tracce, 4 velocità, arriva sino a 38 cm al secondo arriva, di velocità, e regoli la velocità di nascosto, la puoi fare piano piano, poi aumenti piano piano, oppure ravvolgimento, la stessa cosa. È una figata, c'è molto di studer quello, cioè ci sono motori del Revox sicuramente, perché cioè, sono i motori per chi usa le bobine nel mondo, c'è la studer, una fabbrica tedesca che nello specifico faceva più motori là, cioè i presenti con la campana intorno. Certo, studer è un marchio prestigioso di cose, nei maggiori studi di registrazione hanno sempre utilizzato gli studer, e poi c'erano quelli, non so se conosci gli Stella Vox svizzeri, lo stesso, che se te li vedi sembrano cose antiche, cacchio, con quelle bobinette, quelle meccaniche in vita, ma sono apparecchi ad alta orologeria, direi. Sì, calma, una quella meccanica dei materiali straordinaria, cioè il controllo dei fili smaltati prima di fare le bobine venivano controllati con dei rulli, ne calcolavano, praticamente facevano passare i fili smaltati dentro alcuni rulli che erano collegati a degli apparecchi che ne vedevano la resistenza, per capire se lo smalto intorno a quella parte di filo che doveva usare per la bobina era insomma integro, capito, che potesse non dare il minimo problema. Le bobine controllate tutte nella stessa maniera, i primi esperimenti di controllo a raggi X, la Studer, la Stella, delle aziende veramente fuori dal comune. Sì, assolutamente, infatti molte registrazioni RAI di cose in archivio erano tutti registrati con il coso, questo è la Vox, e se uno li vede un occhio diciamo non professionistico e dice che cacchio questo è della guerra, sono quei registratori della guerra, della seconda, diciamo dopo guerra, invece sono delle meccaniche allucinanti come quelli Atari, e lo stesso sono dei grandi prodotti. Sì, K. Vedi, la compagnia d'acqua era una Jonix della serie professionale e pensa che era così stupido che non ci aveva neanche gli attacchi RCA, secondo loro, no? Però facevo i lanci, soprattutto li vedevo in dance, e a tempo invece che Bartolini li spendeva sulla serie Sony, perché i dance Sony erano quelli più quotati, perché erano un'idea da Sony, dance, dunque 75S, chi aveva veramente soldi, tanto per decidere di non cambiarsi la macchina magari per questo mese e di comprarsi un DAS, aveva il 1000S, tutti i prodotti con i tastini cromati, i display quelli con vari colori dentro, tutte le manopoline cazzate per l'MPX eccetera, e poi arrivavo io, roba, con questo tasto da Panasonic color panna, si dice niente. Sono bei prodotti, cavolo. Questo dato ce l'ho ancora, mi viene voglia di andare di là, faccio una foto. Allora, cosa c'è sopra? Ah, la V5000 c'è sopra, è vero. E mandati la foto di questo DAT, che lo vedi con la panna, rispetto a quei soli neri, fighi, con le scritte tutte quante toghe, no? Sembrava una cagata. E mi ricordavo come l'appoggiavo. Questo, ma è come se sembra... Ma sei sicuro? Sei sicuro. Una volta che l'accendevo, che ci mettevo gli attacchi di dietro per convertire RCA, cambiava tutto, cioè ho sentito persone dire io non sapevo di avere delle belle casse, oppure il amplificatore funziona veramente bene, capito? E non so, poi molta gente non ha neanche cognizione di causa, parla senza cognizione di causa, c'è gente che quando si parla di alta fedeltà senti solo critiche, nel senso tu parli di Macintosh e c'è gente che fa pezzi di Macintosh, parli di Mark Levinson e fa pezzi, io sono iscritto in tanti furo, ma molte volte dico ma come cacchio fai a dire qualunque cosa c'è, ti fanno vedere la cosa più bella del mondo, cioè, hanno sempre qualcosa, ma io c'ho questo mio che è ancora meglio, c'è sempre qualcuno cacchio, che non so se sei iscritto in questi forum di cosa, di questi fanatici, che poi a parte sono gente, ma la maggior parte è gente chiusi come mente, non hanno una mente aperta, e vedi dei commenti, leggi dei commenti allucinati di cose, di opere d'arte, di audio, di hi-fi e cose, e poi iniziano, ma qua io c'ho questo qua che è il mio, mi fa sentire il soffio di non so che cosa, poi fanno i commenti, sembra che tu stai facendo un discorso di chimica, non un discorso di orecchio. Sì, capa. Ma è un pochettino, adesso sto guardando i media con questo mio cliente, che vedo un attimino, ah sì, ci sono un po' di filmati, le modifiche che ho dovuto fare un apparecchio, fate due cose dire, poi sì, poi di tanto ti mando qualche filmatino. Sì, questo qui c'è il mio DAT. Aspetta, vediamo un attimino se posso mandartelo. Qui c'era quando avevo riparato il DAT in condizioni allucinanti, U75 tra l'altro, e praticamente una volta che ho finito di metterlo a posto mi sono accorto di un difettino, perché avevo, cioè, quando canti troppo presto, capito? Ero convinto veramente che no, Roberto ci dirà, Maddalena, guarda cosa ho spedito, ma nulla, ok. E niente, ti mando il mattino dove c'è, mi ha dato il tuo dato, aspetta. Sì, aspetta, ti mando la foto del coso, del registratore a bobina della Philips, e ti confronti con altri giocattolini che vendono in commercio, e dopo ti faccio delle osservazioni. Un attimino. Capo. Maria, ci tutti e due qua, bubu. Milo, mi sa che c'è la batteria, carica il microfono, ma non riesco a prendere il portante. Buonasera Antonello. Buonasera anche a lei, dottore. La riesco a prendere la portante. Ogni tanto mi gonfia. E allora, Antonella, la stai combinando? Sto andando a casa, la verità. Cosa sei, a casa? Io sto pulendo in casa, ho detto. Sto pulendo il pavimento, hai capito? Piano piano, con lo sgrassatore. E questo facevo pezzo a pezzo. C'avevo il naso, sembra un coso, sembra, ragazzi. Intanto facevo il C. Addirittura. Vediamo se becco... Se becco... Eccolo qua, così mi mando il filmato. Vediamo, eccolo qui. Forse è forse il di uscita. Un filmato panografico. No, è un filmato di due apparecchi. Ci sono il mio DAS. Eccolo qua. Qui. Il mio DAS e il DAS di un cliente. Perché abbiamo sistemato tutta l'alimentazione. Perché ha scoppiato un condensatore, il liquido è finito dappertutto, gli ha mangiato tutte le piste del tutto l'alimentatore. Praticamente glielo ho sistemato. Una volta che l'ho finito, sembrava tutto a posto, va a riavvolgere il naso, non riavvolgeva il naso, non è un casino. Ho scoperto che il motore di timing aveva dei problemi, che sono tutti così, che tutti quanti l'hanno buttato, e allora gli ho creato un taglio di alimentazione dedicato solo al motore del timing. Un casino, ti manderò il foto anche a te. Basta usare culetti, perché sono pieno di culetti in questo periodo, su Facebook. C'è di tutto qua. Ciao, come? No, stiamo parlando di DAP. Certo che pensi a questo. Che pensi a questo registratore, no? Vai, guarda, ti confronti con quello che c'è sotto. Con quello che c'è sotto? Allora, aspetta. Io sto prendendo questo grande. Ma quello che c'è sotto che cosa? Perché il registratore sotto c'è una piastra in fondo, in basso. No, per capire le dimensioni di cosa stiamo parlando. Guarda, lì sotto una piastra della Tecnis, poi c'è un lettore CD e poi c'è un equalizzatore della Tecnis e un sintonizzatore, che sono dimensioni da rack, diciamo, da non so quanti pollici, adesso non mi ricordo quanti pollici siano, e 38 cm comunque di larghezza, 19 pollici mi sembra che sia, se non sbaglio. E guardati solo gli indicatori, là dove c'è il reparto motori di sotto, e le regolazioni confronto a un registratore a cassette, solo la parte inferiore. Ma se è stato tutta un'altra cupa. La Revox invece faceva degli apparecchi un attimino meno complessi, più normalizzati, ma era una scelta di, sai come, no? Gli audiofili sono quelli che iniziano a dire no, dice roba che se non ascolti il suono, non toccare la cosa, che poi alla fine questa velocità è più facile che non sia quella giusta. E la Revox era su quei livelli lì. Il mio Revox praticamente dovrebbe essere grande quanto questo Fizz, senza l'altezza della parte centrale, quella dove ci sono le testine, per intenderci. Allora, questo qua è un 3 motori, fate il conto, 3 testine e 4 tracce, velocità 9,5, 18, 38 di 19 e 38 cm al secondo. Con questo apparecchio qua ho fatto registrazioni di dischi molto conosciuti a livello mondiale, per dirti. È un apparecchio, non dico professionale, diciamo tipo di studio o cose del genere, ma ci va molto vicino. Pesa 23 kg questo apparecchio qua, c'è anche amplificatore monitor per ascoltare, eccetera. Tu devi cosa cacchio c'è dentro questa parte, ci sono dei motori da paura, cinghie non ce ne sono, ci sono, cioè come non ce ne sono, non sono in gomma le cinghie, sono tipo le cinghie delle macchine, degli alternatori, in tessuto, non so che materiale sia. No, non sono le cinghie quelle, Roberto, sono i freni, perché l'ho letto, direct drive, praticamente c'è un motore dietro ogni bobina, qui c'è un motore di ricarica, è per quello che ha i motori. Bella macchina molto precisa, ed è anche difficile da far andare in quell'allineamento, capito? Cioè dopo 30 anni non c'è niente da regolare, a meno che non ci siano quelli settori scoppiati, ma non credo. Poi tenuto bene, non troppo usato, perché se fosse usato un pochino ci sarebbero dei segni, tipo sui knobs, tipo vedresti dei piccoli segnettini sui tasti, sembra veramente poco usato, dunque questa macchina io la considero in ottime condizioni, anche perché praticamente tranne il condensatore del filtro, l'alimentazione, non c'è niente che si può fare, che si può rompere. Sì, ma poi c'ha, come si chiama, dei motori spaventosi da paura, tutto servoassistito, cioè tutti i tasti, li puoi toccare anche in contemporanea, veloce, avanti e indietro, bloccare, nel senso c'ha un sistema di comandare le, c'ha il bias regolabile, c'ha le registrazioni, cioè per dire, se a te ti piacciono le tonalità un po' più spinte sugli acuti, te le pompavi un pochettino, una specie di equalizzatore in registrazione, ma ti posso dire, ho fatto delle registrazioni, adesso vogliono pulite, vai anche smagnetizzate le testine. Però ci aveva tempo fa quando ho fatto le registrazioni di qualità, sono rimasto a bocca aperta, ho detto cacchio, senza spingere di velocità, senza arrivare ai 38 cm al secondo utilizzando la velocità 9,5. Break registrato, mi sa che devo chiedere un minuto per cambiare batteria, microfono, perché sennò qua la situazione è importante. Sì, una figata, Roberto, veramente una figata. Niente, ti lascio il mic. Nel frattempo c'è anche Antonello che è entrato, fai girare. L'ho salutato Antonello, forse non mi ha sentito. Poi chi è il break? Avanti il break. Buonasera Gianni da questa parte, salutoni a tutti, sono entrato al volo, tipo Chuck Norris, buonasera. Che cagno in radio, c'è un po' rauco, tu stavi cantando troppo. No, sono... tengo il volume della mia voce basso, sono un tenore. Allora, ho detto un'altra cosa, l'altro giorno non eri presente, però... scusa come se sto prolungando un attimino, c'ho una radiolina attaccabile, tipo un cellulare piccolino, però c'è anche, ascolta, sino a 30 mega, è proprio una radiolina con un antennino di 15 cm di lunghezza. Lo sai chi era il più forte di tutti del radio, col capo nel letto, la notte, quella notte che sei entrato tu, che c'era doppio rumo e tutto, Riccardino, Capri, tu eri il più forte di tutti, di radio eri diversamente da tutti gli altri, arrivavi in una bomba e poi ho detto, ma che cacchio fa questo, da giù, in quelle zone basse, di salto arrivare, così, ma la radio dà paura a me, una cosa è ascoltarti, vedevo col baracchino, con l'autoparlante, vedevo con una radio lì inattascabile, tu arrivavi in una bomba e poi ho detto, questa è la radio più forte di tutti. Eia, non so che ci sia frequenza, sono entrato così a strappo, tipo decespugliatore, dai, con l'avviamento a corda. Comunque buonasera a tutti, non so che ci sia, riepiloga perché tra l'altro sono qua, c'è sonore proprio adesso. C'è Fabio e Antonello Pompugno, vediamo Antonello avanti a te se ci sarà. Eia, già ci sono, ciao, saluto di ben entrato, cuscia porco. E saluto da tutti per quelli che ci sono in pratica. Ho preso la beta quadrato, Fabio Master, eccetera, eccetera. E in quattro siamo, no? Non ci allarghiamo molto, siamo io, tu, Antonello, Fabio e Gianni Profetta. Adesso vediamo se la batteria l'ha cambiata a Fabio e facciamo riprendere al... Aspetta che gli metto il tappo. E beh, mi stai dicendo Gianni, ma sei rauco o cos'è? Che quale motivo? Ti sento un po' diverso di voi. No, sto tenendo il tono della voce a basso, come è giusto che sia, sono le 11:20 e quindi niente dai, tutto qua, niente di... la mia voce grazie a Dio funziona perfettamente. Ah no, mi sa era un'apparenza. Ok, vai Antonio. No, già esce bene, la verità lui, Io avrei al centro storico, se si mette una bella Mantova, 300 euro, è a posto, va. E mi devo pure darsi bene che non ho più di più per 20 anni, così almeno ho fatto un affare. Non ho mai visto io una Mantova, 300 euro, l'altra 250, ma stiamo scherzando. Questi sono tutti pazzi. Comunque secondo me non ne ha bisogno di manco Antonio, lui esce a bomba, arriva a quasi 9:20 da me, c'è un segnale spettacolare, considerando che in un fosso rispetto a me è chiuso a palazzi, c'è un sacco di palazzi prima di arrivare a me qua. E poi lui ascolta a tutti, vedo che tutti ascoltano e riceve a tutti. Guarda che dove abita lui, abitato lì vicino, ho abitato io con la Grand Prix, quindi so come esci. Esce veramente bene lì, perché si è aperto per la zona di Alghero, eccetera, c'è tutto aperto. Bene, Meda, mi avete detto che c'è Fabio, però boh, non lo so, se è in frequenza. Avanti Fabio se ci sei. No, fa Gianni, ho dovuto cambiare la batteria del microfono perché distaccavo la portante. Ben sentito, come mi ascolti? Carissimo, io ti sento a livello di QRM, proprio faccio difficoltà veramente a capirti. Non so quali sono le tue condizioni, però veramente faccio, ma non da adesso, da diverso tempo, faccio fatica a capirti, non so come, saranno le mie condizioni, non so come sei messo tu. Caspa, guarda così se magari di radio arrivo un attimino più forte, così sono più comprensibile, punto di radio dal QRM. Guarda, aspetta adesso alzo il volume, appena, ma laghetto quando moduli si muove proprio appena qua dalle mie latitudini. niente, faccio difficoltà veramente ad ascoltarti. No, ero curioso se si può dire, chiaramente poi sei libero di dirmi che condizioni di trasmissione hai, dai. Sì, adesso un cc in più, dai, comunque ti ascolto, dai. Sì, diciamo che in mezzo al QRM, dai, adesso riesco a decifrare, a comprendere le tue parole. Niente, io ti dico come sono messo io. Allora, c'ho un Super Jopix 2000, sicuramente lo conosci, una boomerang sul tetto e un microfono M95 della ZG. Qua Fabio è calato molto di segnale, la radio è sporca. Infatti si è abbassato di già 9 quasi 30, si è sceso a quasi 20. Mettete Viviante M. Ciao Manuel. Ciao Roberto, ciao Gianni, ciao Pomponio. E mi sembra che c'è Fabio, mi sembra. Fabio Marte. Sì, c'è anche Fabio. Saluto a tutti comunque. Riprendi anche Roberto. Non so se hai nominato, ero un attimino di stato, Gianni il profeta l'ha nominato, c'è anche... Non lo sento, comunque per sempre perché a lui, dai, Gianni. Ciao Manuel, buonasera. No, vabbè, per carità, non... Mi dispiace perché faccio veramente difficoltà a ascoltare Fabio, perché è in mezzo al QRM, niente. So che mi ha che mi sente, che mi ascolta, e niente, insomma. Adesso, visto che c'era questo QSO, no, siccome è già da qualche sera, è capitato altre volte che stavamo chiacchierando, veramente ho difficoltà a copiarlo. Sicuramente avrai gli affari suoi a livello di radio, quindi e niente, dai, no, comunque a fottidini fa, dai, vuol dire che cerco di alzare il volume. Aspetta, profetta, guarda se ti arrivo meglio così. Sì, adesso decisamente meglio, Fabio. Ok, avanti. Ok, allora, la posizione dell'antenna diversa, sono 3 metri, l'altra antenna è una signora antenna, questo è praticamente un pezzo di fil di ferro, però il fatto che siamo distanti 3 metri, con solo 3 metri di differenza, arrivo da te o non ci arrivo? Pensa tu. Sì, guarda, adesso mi arrivi Santiago 6, 7 oscillante, prima, ti ripeto, laghetto rimaneva quasi fermo sull'1, vedi tu. Figurati, Roberto, come sono da te? A me sei poco meno di prima, comunque sei 9,25, prima eri quasi 9,30. Cappa, da quando arrivo c'è Emanuele. Emanuele, mi ascolti? Sì, ti ascolto fa, però segnale zero, la radio di 2, però ti ascolto, ti tiro fuori. Ecco, ancora visto, 3 metri di distanza, non arrivo più bene da te. Arrivavo meglio prima con la tua antenna, solo che non arrivo alla tua fetta. No problem Fabio, fai quello che meglio credi, no, no, non ci sono problemi, figurati. Cioè, era giusto fatelo sapere comunque, dai, no, no. A futtidini, dai, no, no, no problem. No, dai, dobbiamo parlare tutti. Se Emanuele mi aspetta, almeno riusciamo a parlare. Se no, in realtà la parte io piuttosto che creare problemi, come faccio ogni tanto, fino a quando non riesco, non riuscirò a mettere sopra l'antenna, non dire. Va bene, Roberto, metti ordine, dai. No, vabbè, dai. Più o meno ci ascoltiamo tutti, dai, hai migliorato anche giù un po' verso la parte bassa, cosa riesce a tirarti con le pinze, però riesce a tirarti anche lui, Manuele, qua sei vicino, anche con Antonio non ci sono problemi. Com'era l'argomento? Stiamo parlando di quelle, bella quel dark, quello bronzato, è veramente bello. Quale? Quel dark che c'è sotto? Ma quello è tuo? Quello è il mio, ancora poi prendevano in giro, ma andavo in giro con quello, ho capito. Mi fa 10 a 0 quello che tu sei. Ma c'hai, non ho visto in funzione, non ci ho fatto, ho visto un pezzettino del video, c'è anche gli indicatori di coso, delle barre di coso, di livello? No, gli indicatori di livello, di picco, vabbè, e basta. La cosa bella è che con quell'apparecchio là hai una profondità che sembra di ascoltarlo con 4 casse, capito? Senti la profondità che solo il vinile ti può dare, non c'è niente da fare. Il CD, anche se ho un bellissimo visitatore CD che gira veramente veramente bene, però non ce n'è. Quando lo passi in DAS il vinile senti delle cose che non riesci a sentire di solito con digitale, ma neanche per scherzo. E ti stai portando un disturbetto sotto, non so se sia problemi di saturazione o problemi di batteria scarica. Problemi di rientro all'antenna, questa è l'antenna che ho a un metro. Ah, per quello, allora lascia stare, non ti preoccupare, era solo per darti un'indicazione, magari era risolvibile più facilmente, rimane tutto così, non ti preoccupare, perché se fosse stato un rientro, magari, cioè non un rientro, una batteria scarica era più semplice. No, la batteria sarà cambiata. Questo è, allora facciamo il conto da quando sono andato a modulare, che non so quant'è, ma sarà un mesetto abbondante, forse se lo ricordo Antonello che mi ha regalato lui l'antenna, tra l'altro l'altra, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 batterie già scaricate dall'M600, questa è la stessa. La stessa cosa anch'io per quell'M600, ti faceva massimo 10 giorni, non ho mai capito per quale motivo consuma così tanto. Non lo so, vabbè, ma se non ci tieni e non te ne fai nulla, fai il prezzo che vuoi e io te lo recupero, se no sto affezionato a questo modello, se non ti fai nulla. No, è collegato alla radio, per ogni radio c'ho il suo microfono collegato. Hai fatto gli accoppiamenti? Sì, quello lì è all'Intec, poi al Multicom, poi c'è l'altro della Intec base, che c'ha un altro microfono suo della Intec, poi c'ho il Tanner collegato al patch, alla lampada cotto c'è collegato l'M93, poi gli altri microfoni per gli altri apparati. Sì, ci vuole l'abbinamento, l'abbinata è importante, tipo l'Uprofessa ha trovato una combinata bestiale per la radio, ti fai sentire di modulatore già, bellissimo. L'ho guardata anche io tante volte, è una bella radio, potente e corposa. Avanti Emanuele. Comunque, sì, appunto, aveva molto bene Gianni, una bella modulazione, e qua ne aveva abbastanza bene. Non so di dalle sue parti, se ne ascolta bene, avanti già. Ciao Manuel, buonasera. No, quasi 9, ultima abbondante. Radio proprio bella di quelle da camionista, come ti si dice. Io qua sono zona stazione, non so tu dove ti trovi. Comunque qua il segnale è bello e la radio ultima abbondante, come si dice, dai. E allora siamo vicini anche per quella, allora ti ascolto bene. Sono una maledetta comunque io, ci siamo già sentiti mi sembra un paio di giorni fa, ma ancora già. Positivo, vai, qua dal terrazzo di casa vedo la Sinara, quindi voglio dire, vedo il grattacielo di Pisa, come ti si dice, e tutto il quartiere americano. E quindi sono aperto, un po' chiuso dalla parte più alta, però forse per quello che a Fabio ho difficoltà ad ascoltarlo. Comunque Antonello e Roberto già escono bene, dai, avanti Antonello, che l'abbiamo lasciato in parcheggio. Antonello ogni tanto scompare. Aspetta, sono qui, sto arrivando subito. Sono qua, mica sono 2 minuti. Bevo la bevita, poi scompare, boh. A parte il bar è chiuso. Vai, zigo, c'è aperta. Vai, tranquilla. Sicuro. A parte la bevita, ce l'ho calda. Ma calda no, basta di tempo. No, ce l'ho calda perché ce l'ho in busta. Ho neanche aperta, figurati tu. Perciò niente birra oggi. Va bene. Ma Torello, insomma, niente birra. Mi dispiace a te, perché tu di solito a quest'ora una mezza birra la fai, no? Sì, fatta che scendo da lì, così a te, guarda, non c'è problema. Ce la beviamo anche adesso, mi se vuoi scendere. Fatto che la metà notte. Ma perché il bar è aperto, Andrea, sotto di te? No, Andrea ancora non è aperto. Ma Nicco è aperto, il fratello di Giuseppe è vicino. Nicco, e dove è Nicco? Via Torino. Non ho capito, Antonio, c'è questa radio troppo forte, cosa hai detto? In via Torino. Ah, e poi stavo a dire sotto casa tu. No, oh, via Torino è aperto. Ma stai parlando, il coso, il circolo? Sì. E chi c'era quel circolo? C'era andato tante, c'era un coso, un pirata, Felice Sio, ancora c'è. Ah, il pirata, via. Avevo preso un volico in mano, gli avevo fatto un sacco di casino, boh. Debiti, non so che cosa. Hai capito? E quindi avevo preso un fatto di cosa, di Giuseppe. Chi ci ha sceso il vaso, il VAR, adesso un po' si è ripreso il Tris, che era di una potenza, ne aveva tolto tutti i clienti al piccolo bar, e invece adesso il piccolo bar cacca giù, ma non è più niente che il Tris. Al piccolo bar ci andava Paolo Giorgio, tu lo ricordi? Quello cieco, quello era l'allenatore. No, non ce l'ho presente. Quando lo vedi, l'unico che lui, l'unica persona che è cieca lì, e va col baccolino, quello è Paolo Giovagento, l'unico cibino l'allenatore di Sassari, che è l'allenatore, e tutti i giorni a Sassari quello, va lì a piccolo bar, si beve la birra, quello che è, un caffè, quello che è, e poi si torna a casa, e dopo che prende il puma, parte, mi sembra che abita a Bonanno, adesso non è che mi ricordo la verità, mi sembra accompagnare la moglie. Lì un sacco di amici ci andavano, a Coso, Antonello di Fusaro, Ruspa, lo conosci? Sì, Antonello di Fusaro va da Nicco, l'ho visto l'altro giorno con 3 cani. E a Ruspa lo conosci? Sì, tutti li conosco, a parte Garibaldi, conosci Garibaldi, sì. Ma io perché molte volte andavo a recuperare a quello ad Aldo, Ruspa per gli amici, era sempre in chibi, quando dovevo fare qualche lavoretta io lo recuperavo, io vieni in officina, non c'era qualcosa da sistemare. C'è anche Roberto per i capelli che va lì, fa vedere, è assolutamente allucinante, Roberto per i capelli, è troppo prova. L'ho trovato l'altro giorno, da Coso, da Oggiano, e l'ho preso in giro, dai, a me mi conosce bene, mi chiama per nome, dai, perché è venuto qualche volta con amici per prendersi un po' di ferraglia, dai. Qualche viaggio di recupero l'abbiamo fatto con Paoletto, qualche cosa glielo diamo per farsi recuperare qualche spicciolo. Ha iniziato a raccontare, cacchio, era un piscio, e te cosa stai facendo? Io voglio una velocità parlando, non ce n'è. Lo conosci tu Fabio, a Roberto Bericca? Cazzo, e così hanno fatto collega al Battola, con la Volga, tutta la compagnia del Battola, e una casa di birra. E poi hanno stato un paio di corsi su un pettine a Zorro, in bandiera che c'era la Battola. Dice Robè, se ti fai tagliare i capelli da Zorro, questa casa è tua. No, dopo 2 mesi ha detto di sì. Allora, tu forse sei anche però addirittura, non so se poi se la rifate ritagliare. Lui quando ci ha parlato di quel coso, quelle treccine errata, te lo ricordo? È chiappa. Adesso lo vedo ingrassato, ma stiamo parlando più di 20 anni fa, 25 anni fa. L'avevano preso perché c'era il sindaco, non mi ricordo chi c'era quell'anno il sindaco, ha detto tutti i barbuni, tutta la gente è trasandata, non ne voglio vedere assolutamente. L'hanno recuperato, l'hanno portato all'ospedale, gli infermieri, tutto quanto, l'hanno tutto quanto, alla parte l'avevano fatto i capelli corti corti, irriconoscibile, cioè lo dovevi vedere era un'altra persona, la vada è pulito. Ha detto dai, si tiene un po' meglio, ma c'era un periodo, mamma mia. Poi tra l'altro, cioè, è di qui di casa, della mia via, cioè all'inizio della mia via praticamente abitava lì, cioè c'è tutta la storia, da quando era diciamo comune, adesso non è molto comune, ma cosa è successo? No, ma un ragazzo, poi non fa male a nessuno, scusate, non è di quei delinquenti che rompono le scarpe, non fa male a nessuno, no? È un buono, dai, poi quando ti vede ti saluta, educato, non è tipo che dà fastidio, dai, assolutamente. Ok, facciamo riprendere Emanuele e poi Gianni Rubroffetti. Emanuele, ti stavo ascoltando malissimo perché c'è qualcuno che manda laterale di propagazione, ho capito che stai andando via, rimani in quel rizzo, dai, ti saluto, dai, anche io tra poco vado via. Ok, avanti Fabio e poi Gianni Rubroffetti e Antonello per salutare Emanuele. Allora seguo l'ordine, saluto di Emanuele, ci vediamo presto, vedrai che ci vedremo anche meglio. Alla faccia di tutti quelli che hanno una bella stazione, anche noi vogliamo una stazione bella, con l'antenna bella, deciso. Gianni per i saluti, poi tornerò. K Roger, ciao Manuel, alle prossime. Un ultimo passaggio era incomprensibile, adesso non so se è qualcuno FM che qua arriva forte o è in banda laterale. Era praticamente quasi quasi ti schiacciava, anzi quasi, praticamente ho capito metà di quello che hai detto, comunque non proprio, dai, ci aggiorniamo, avanti Ale. Sì, ciao, perfetto, ci sentiamo, stammi bene, buonanotte, buon tutto. Alle prossime linee ci vediamo, ci sentiamo. Poi se passo il centro storico, basta telefonarmi e ci vediamo, non c'è problema. Lui ci fa questo spesso, lo sai. No vabbè, io faccio qualche altro passaggio, sono ancora qua, no, stavo salutando a Manuel, stavo salutando. Facciamo qualche altro passaggio, dai, con Fabio, con Roberto. E poi niente, boh. Oia. Che dire? Adesso mi sfugge. Ah, belli capelli. E mi ricordo quando andavo a prendere mia sorella che studiava le commerciali in via De Carolis, andavo così, andavo un po' prima giusto per rifarmi gli occhi come tanta altra gente, e c'era la greffetta lì all'uscita ai cancelli, beh, i capelli già me lo ricordo da quel periodo, figurati. C'è qualcuno che sta mettendo portante comunque. Diciamo, ma è un bravo ragazzo, ripeto. E lo ricordate l'altro personaggio del periodo? Banana, Danilo Banana. Danilo Banana. Danilo, quando l'ho fatto la sola? Quello che gli aveva fatto uno scherzo e scoppiato. Capo, quello che parlava la sola, giusto? Che era contro i comunisti. Era un tipo così, gli avevano fatto, almeno si diceva che gli avevano messo una pastiglia in un coso, di coso, una pastiglia di droga, non so dove, in un liquore o qualcosa, decido di gas. Sì, a Zappa, un giorno gli ha fatto cagare sotto, il cantone, che c'erano le macchine parcheggiate, e non si passava la chino, erano costretti, e c'era un cartellone di occhietto, che non poteva essere. Cosa c'era? Un cartellone delle elezioni, no? E c'era la foto di Occhetto, partito comunista, non so che cosa, che anno poteva essere, erano anni 90, credo. Penso più o meno con le tali. A un certo punto di botto siamo per incrociare, io stavo guardando, stavo decidendo se schiacciarmi un po' a destra o un po' a sinistra, no? E riuscire a passare tutti e due, quando siamo arrivati uno di fronte all'altro, si ferma e inizia. Cosa pensavi di fare? Mi è sceso grasso. Ah, ne hai toccato il coso, il suo idolo. No, lui stava parlando con l'occhietto e io l'ho lasciato parlando con l'occhietto, però all'inizio stava guardando a me, cioè si stava rivolgendo a me, poi si è girato verso il cartellone e continuato a parlare con lui, il discorso, la politica, qua e là, non pensare di fare qualcosa tu, hai capito quello bello, cioè tu queste cose non devi fare, perché se vedi bene come la cosa, tu ci porterai il paese alla rovina. Giù Maria, cazzo, di chi sono andato? Scusatemi un attimino, riprendo tra 5 minuti. Gappa, gappa. Anche l'altro, un bel personaggio. Antone, e tu non sei un personaggio? Ancora no. Ma ci finirò in giornale anch'io, non ti preoccupare. Prima o poi ci finisco, sono uno degli unici piccolini che sono rimasti, piccoli, piccoli, piccoli, non conosciuto. Vabbè, se uno vuole essere famoso, potrebbe essere famoso per una cosa di bello, non per una cosa di brutto, no? Appunto, mi metto a fare Maria, vado lì nella cabina di telefonico, mi metto con la cicciofonico. Buongiorno signora, benvenuta, questo è l'hotel che piace a lei, non c'è problema, entri pure. Già si vede che sei vecchio, cazzo, cabina telefonica, non viene più qualcuno in giro, si è tolta la telefono, non le vuole più. Ho due trofei, ho la cabina telefonica che va a Tonello, ui. Eia, qua sotto casa ce n'è ancora una che sopravvive imperterrita, ogni tanto vuole qualcuno ci fa le pulizie, fa la manutenzione, quindi presumo che si attiva. Adesso a proposito di personaggi strani, particolari, no, Danilo Banana me lo ricordo, ci sono svariate leggende che lo riguardano, insomma, molto particolari. Io me lo ricordo in Piazza Italia con le cuffie, con la radio FM, con la radio incorporata nelle cuffie, che girava e si ascoltava il radiofaro di Fertilia. Cosa volevo dire? Vabbè, ci sono un sacco di leggende che riguardano Danilo. No, mi è venuto in mente un altro personaggio particolare che frequentava i giardini, non so se ve lo ricordate, Gigi Brancazzo. Gesù, stavi esumando cose che pensavo di non avere più in testa. Chiaro che è morto Brancazzo. Sono rientrato. E beh, chi è rimasto qua? Vabbè, riprendo io. No, io ho visto delle performance che Hollywood se ne sogna, ai giardini. E vabbè, adesso piano piano mi stanno venendo in mente altre cose. Però Gigi Brancazzo era un mito, dai. Di chi state parlando? Gigi Brancazzo. Spiegare. E fatelo spiegare a Fabio, vai. Girava sempre ai giardini. Le combinava una dietro l'altra, tipo che prendeva un rotolino, magari un pezzo di pacchetto di sigarette d'alluminio, no? E se lo faceva a pagina, si diceva 10.000 euro, 10.000 lire, ci sono 4 cannoni dentro, di tutto, era un supersettico, capito? Cambiava stile da un momento all'altro. Beh, non ce l'ho presente, almeno con il nome non mi dice niente. C'era poi il mitico Gesù Ducchi. Che non conoscete a Gesù non così. È morto anche quello, il poeta, che è andato lì a Kosovo, in televisione. Cacchio Fabio, non conosco a Gesù non così, tu mi meravigli, tu e l'altro, e Giovanni e Gianno Profeta, lo conoscete? A voglia, ecco, Gesù era un'istituzione. C'era, adesso non mi ricordo che anno era, praticamente aveva fatto anche qualcosa per la torre, se non sbaglio, non so, non mi ricordo se era per la torre maschile o per quella femminile. Io nel frattempo mi sto a girare una sigaretta. Allora, Gesuino, quando c'era la torre, che era Torres, no, Mondezza di adesso, quando era in Serie C e c'erano giocatori, eccetera, lui tutti i giorni andava a fare gli allenamenti alla torre, se si metteva dietro la porta, lui aveva bene a beffa, gli davano un paio di scarpe vecchie di calcio, gli ha dato dei pantaloncini, li stavano a sua volta, e lui, ci sono i video mi ancora su internet, se li trovate, ma era una cosa spettacolare. Allora era andata la corrida di Corrado e aveva cantato Granada, ma secondo la testa sua lui era un cantante, mamma mia, ogni scandalo, io lo conoscevo bene, ed era, non lo volevate così, era un mandrillone, nel senso gli piacevano le donne. Un giorno in Piazza d'Italia frequentavo con degli amici, tutti di lì, ogni tanto si organizzava qualche festa, organizzavo delle feste giù da me, agli punti, che avevo un capannone, una cosa del genere, e lui ha sentito la sua storia, perché facevamo anche gli inviti, si andava a inviti, eccetera, eccetera, ha detto, guarda Gesù, io ti faccio venire, però mi raccomando, cerca di comportarti bene, perché le ragazze si sono lamentate che tu vuoi fare sempre il coso, il fighetto. Oh, no, non ti preoccupare, già, è venuto, è sceso in ombrello, era una giornata piovosa d'inverno, è sceso col tram e poi ha fatto arrivare dove c'era il posto rotolo, dove fate un paio di chilometri a piedi, è venuto tutto quanto, ci ha fatto il balletto suo, va, ti posso dire, non solo ci pensava che fosse, cioè che riuscisse a trovare al posto, soprattutto a venire, è venuto. Poi gli facevamo cantare, recitare le poesie sulla Sardegna, cantare, guarda, era una cosa spettacolo, un personaggio è mancato a tutti, c'è la tomba sua al cimitero. No, ti stavo ascoltando, pensavo che te fosse che si dovrò questa. Ma come sto sento il radio, che sembrava che non stessi dicendo? Sto sento? Che ti sento un bel male, Fabio, tutto bru bru bru bru bru. Sai che sto per cambiare la terna, qui la processionale a 7, almeno. Io per non bruciare niente. Ma non ho capito, Fabio, se lo conoscevi o no, Gesuino? No, ho capito più o meno chi è, ho capito, anche se poi alla fine non è che ho avuto molti contatti. Da racconti più che altro, perché mai di persona non l'ho mai conosciuto. E poi ve lo ricordate quello che stava in Piazza d'Italia, a Via Roma, vicino al museo, con la barba, e stava sempre fissando qualcosa nel cielo. Stava guardando gli astri. Questo qua dice che aveva 3 lauree, non era uno stupido, una persona istruita, poi è uscito di testa, è detto po' studio, si dice tutto qua, e questo tutto lo trovavi sempre fermo in piazza, in via Roma, vicino alla testa del museo, perché lui abitava in via, te lo fermava, te lo guardava, era sempre prendendo in alto lui, sempre cercando qualcosa, però quello veramente è morto, era già grandetto quando ero ragazzo io, penso che a quest'ora avrebbe 80 anni, sarà probabilmente morto. Dai, non c'è più. Ah, tu lo conoscevi bene. Sì, Gesù così di pratica sarebbe lo zio di babbo, per esattezza. Poi ci sono nati così, sono parenti suoi e sono in pratica i proprietari del, come si dice, dell'Alta Russi, a Sassari, a Pagalietta. Hai capito? Dopodiché, vabbè, stava bene me, lui abitava in via Giovanni Pascoli, io c'avevo, mi sono rimasto delle poesie, mi sembra, roba sua, ce l'ho conservata a casa di mia sorella, di Giovanna, su tutta la roba di Gesù di Cossetto. Hai conosciuto anche il fratello Giovanni allora? Sì, ho conosciuto tutti, sono parenti di... In pratica di mio padre, guarda che lui in pratica è parente anche, se ti ricordi bene, la faida che c'era al nuvolo, cazzo, non mi ricordo il cognome adesso, sono parente di Corsetto stesso, capito? Sì, lo vedi tu. E l'aveva ammazzato uno, adesso non mi ricordo il cognome, la verità. No, di questo non lo sapevo, però lo conoscevano tutti, erano di quei personaggi tipo Peppinella, l'avete conosciuta? Peppina la vecchiaia. Sì, io mi ricordo Peppinella, quella che chiamava il baracchino, la verità, e basta. Lì in via Monoli, non mi ricordo altro, ma comunque lui è parente di una... una cosa di ruolo che avevano ammazzato, non mi ricordo per che cosa, la verità, comunque erano parenti, perché sono parenti di mio padre, hai capito? Ormai lui dice, mia cugina, ci si vede nuovo con me, vai, vai, lì tu, e la giovane fa mi ammazzare, ho detto. E poi non è Sassarese, però è un personaggio unico, probabilmente Gianni Profeta l'ha conosciuto perché quando era TeleG questo qua mettevano sempre le immagini quando era marito Costanzo, Francesco Mura, quello della Gentiera che raccontava le cose fantastiche, l'avete conosciuto? Già me lo ricordo, adesso rievocando personaggi storici, mi ricordo Compagno Fiori, che saliva in Piazza Italia, Fettina di Cavallo, cantava la canzone Fettina di Cavallo, ti mangia patamona, ti mangia patamona. Poi mi avete fatto venire in mente Marinella, poi da piccolo ho conosciuto Patamona, il vecchio, quello che abitava sotto le arcate del Ponte Rosello, e poi mi stanno venendo in mente altre cose, dai. No, ma questo Francesco Mura, ce l'ho cercato su internet, guarda, una cosa, un'intelligenza, una comicità, un'inoria, raccontando le balle, è un professionista. C'era quello Lello Arena, quando l'hanno invitato al Maurizio Costanzo Show, addirittura quando è morto, siccome non era molto benestante, Maurizio Costanzo gli ha pagato il funerale, talmente è stato colpito da questa persona. Lui diceva, dottor Costanzo, Dio mi fulmini se sto dicendo menzogne. Cacco, raccontava certe balle allucinanti. Noi abbiamo le angurie, talmente sono grandi che con i semi i bambini si fanno i frismi e le barchette. Un giorno ne ho rotolata una che a coso, che come si chiama, ne ha buttato un muletto a secco, è entrato dentro la camera da letto di questa, dice una cosa, dice come si chiama la punta dell'anguria dove c'è il ramo, non mi ricordo c'è il nome, con le motoseghe. Poi ho preso un giorno il polpo, talmente era grande, per tirarlo fuori, per innescare abbiamo preso una pecora, noi usiamo le pecore per innescare, in te, cazzo, ma le balle di quest'uomo era una cosa, ma raccontava di una serietà, c'era quello dell'arena che se lo guardava diceva che c'è fuori di testa, era un piscio, così balle fantasmagoriche, cose impossibili, lui era come che fosse la realtà, e diceva Dio mi fulmini, ma non ci credete, Dio mi fulmini se dico menzogne, questa è la pura verità. Capo che me lo ricordo, e me lo ricordo il Movimento Santo, me lo ricordo, ricordo la storia, tutto. Era veramente fuori di casa, tutto fuori, completamente fuori, c'erano le cose proprio allucinanti, incredibili. Gianni ci ha lavorato a TeleG, ogni tanto lo programmavano quel video, te lo ricordi già? Sì, già me lo ricordo. Mi ricordo la storia del polpo in freezer. Mi ricordo una volta che è entrato in acqua a farsi il bagno, si è drumito, che a un certo punto ha sbattuto la testa, si è svegliato e si è trovato a Genova. Tutte le balle. Ma noi ne abbiamo sentito pezzettini, tu figurati quelli che vivevano alla Gentiera, che lui frequentava quel bar che c'è lì alla Gentiera, cosa cazzo di balle ne poteva sparare a centinaia. No, ma quella del polpo, ma questo quella di Gentiera, non è stato notando, sì, quella sì, ma poi le balle erano talmente evidenti e grandi, ma quello del muro a secco che ne è sceso dall'anguria, che ne ha spaccato un coso, ha ammazzato l'asino, che dopo si è fermata dentro la camera da letto di questa casa. Oggi anguria, 700 kg d'anguria, te li immagini? Dice, come si chiama il non mi ricordo, c'è un nome strano, il coso dell'anguria, come si chiama il rametto dove rimane attaccata in terra, come si chiama? Ma poi come si chiama? Non me lo ricordo adesso, sto facendo l'uso di come si chiamava quella famiglia della Faida, la verità, eravamo stati quattro, poi infatti la famiglia sono fuggiti loro, tutta la famiglia e l'aspetto in pratica si sono venuti tutti quanti a Sassoli, hai capito? Però mi ricordo adesso come cavolo si chiamava, loro sono due vigili di Nuoro, sono due vigili, hai capito? Ma adesso non mi viene in mente il nome, se mi viene in mente il nome te lo dico immediatamente. E a cosa? A Parava ha conosciuto la vettura? Sì, a voglia. Allora, beh, adesso c'è cosa a posto di Parava? Quello che fa Antonio Lucchi, come diavolo si chiama? Che sale cazzo a piedi, si fa tutta la passeggiata a piedi, con microfono, con cuffie. Lucchi sta dicendo, Pinuccio Cavizzo. Sì, Lucchi, esatto. Ecco, lo conosco bene lo stesso. No, a Parava eravamo piccolini, che noi ci mettevamo dietro alla strada. Parava era la nostra soddisfazione, lui ci diceva, se vi prendo qua. E noi scappavamo bambini, perché mia nonna abitava di lì, in via Torino, ad angolo con via Coso, con via Lerante, proprio vicino al circoletto che stai dicendo tu, proprio di lì, tutta l'infanzia l'ho fatta di lì, sino alle medie, poi le medie siamo saliti su, cioè la sera ci portava di lì, uscivamo da scuola, andavamo sempre di lì da mia nonna, ma Parava era una cosa allucinante, quando lo trovavamo, Parava, Ognarecci, ve lo ricordate a Parava? Sì, più o meno la zona che basticava era quella. Adesso mi avete fatto, avete parlato di Rocchi, ieri mattina è passato sotto casa a Bozzi. Ho detto, bah, qualche risa. Invece c'era lui che stava parlando con della gente qua, fuori da un bar. Siete di Azzurredo. E a Cicottino lo conosce? Che non avete mai visto Cicottino, io a Torino, Rubiglio, lo sfido, bene qua, e quando una su sono abbassata dei pugni e rubò, su parlava messa sarebbe molto, molto spiccato. E lui è piccoletto, Torino è una montagna a 1,90 m, un fisico da po'. Io gli lancio il guanto di sfida. Un altro io avevo visto una volta una lista rotta dove c'era questo tipo che prima l'hanno messo tutto quanto a calci, no? Che bello che per l'italiano perciò tutto quanto a calci, ecco. Beh, ma ha preso a calci perché dice che toccato una pipa, guardato una pipa, no? Ma è una cosa che si è in compagnia e allora l'ho preso praticamente, l'hanno tirato fuori dal locale. Poi il baraccocco era lì davanti che guardava la cosa, non toccare nulla perché insomma c'era la sua brucia dietro. E a un certo punto questo qua, mi hanno preso a calcio per 10 minuti, si è alzato, ha preso il corpo della macchina e ha messo in moto la motosega. L'avete mai sentita questa cosa? No, questo non l'ho mai sentito. Volevo sapere se non te la dico qua. Insomma, questo prende la motosega, si mette a seguire uno di tutti qui. Disperso nella 131 di notte, in mezzo al buio, che come passavano le macchine, camminavano un pochino, li vedevi, di un'ora, questa motosega, tutto si sente boh, si sente la motosega, e quelli che avevano preso a calci prima, i sottotitoli a noi, stavano a preso a calci nella 131. Due volte a buscate. No, chi era quel film? Quello dei pagliacci, la motosega, quello di Hit, così. Sì, certo. Ogni tanto fanno qualche video così di scherzo, che c'è un tipo nel garage, in quei garage a piani, ne c'è questo qua vestito da pagliaccio con la motosega e si vede un pupazzo tutto tagliato a pezzi in terra e vede gente cagata sotto. Ma personaggi ce ne sono tanti a Coso, a Sassari, tantissimi, infatti ci sono quelle caricature che fanno di Coso, vabbè io non ho conosciuti quelli più vecchi ancora tra Padetto, tra quella gente lì, però ho visto le caricature di tutti questi qua, io ho conosciuto Parava di quelli del mio periodo, Gesuino Cossetto, adesso c'è Rocchi, che quasi tutti i giorni sale verso casa di Antonello, arriva a scala e gioca e ritorna. Almeno su 365 giorni all'anno, lui 300 volte all'anno ci sale su. Ma cosa fa? Nulla, non fa niente. I fratelli sono abbastanza conosciuti a Sassari, hanno un'attività abbastanza importante di meccanica, il fratello. E lui è solo il capo, figlia, sale su, niente, arriva su e torna giù così. Lo vedi, lui è vestito con le fasce come i pugili prima di entrare su per combattere, quando gli mettono le fasce nelle mani, così pantaloncini, molte volte si mette la fascetta in testa, con le cuffiette, qualche volta le cuffiette che poi sono cuffie, e lo vedi correre facendo respirazione, tipo il pugile a Rucchi, e muove ogni tanto le mani, è tipo come fa il film Rucchi, ti ricordi quando aveva fatto gli allenamenti? Da, anche questo mi piace dire, non fa male, non fa male, così. Eia, ma adesso ho visto uno, dice che a Filadelfia, una palla su un fake news, che hanno scritto che ne hanno buttato in terra a Filadelfia la statua di Rocky Balboa, perché per razzismo, perché ha picchiato due negri e più un russo. Ma è sì, è la fake, perché adesso ne hanno buttato quella di Cristoforo Colombo, tutte le cose di Abramo Lincoln, tutte le cose in America, ormai basta una cosa e sei subito razzista, peggio di noi sono. E ne è uscito questo fake news che c'è la statua di Rocky buttata in terra perché, come si chiama, aveva picchiato nel film due di colore, due neri, diceva il razzismo, e in più questo russo, che è lo stesso russo.